Ciao a tutti da Claudia Mighty Mau. In occasione di questo speciale pasquale per la Roboteri, quello che vi propongo è una variante possibile di quello che faccio in radio dal 2010, ovvero la mia trasmissione Mighty FM. Di solito si tratta di monografie che ricostruiscono in maniera enciclopedica la carriera di un artista in occasione di un nuovo album, oppure la presentazione di un evento, un festival, tutti gli artisti che vi partecipano. In questo caso ho pensato, il mese di marzo, che per noi è stato così strano, iniziato in modo più o meno normale e poi trasformatosi insomma bruscamente in un periodo sospeso, invece per il mercato discografico è stato un mese regolare, le uscite discografiche vengono pianificate per tempo e quindi quello che doveva uscire è uscito. E allora ho pensato, questo marzo è esistito realmente dal punto di vista musicale? Allora andiamoci ad ascoltare quello che ci è piaciuto delle uscite di marzo, e invece per la sigla che state ascoltando ho deciso appunto di mettere quella che scelsi per la prima stagione di Mighty FM, ovvero la versione del Inno alla Gioia della colonna sonora di Arancia Meccanica, film del 71 a firma di Wendy Carlos, che allora tecnicamente ancora si chiamava Walter Carlos, perché nel 72 si sottopose ad una operazione per la riassegnazione del genere. È una pietra miliare della musica elettronica, della musica da cinema, e da allora in poi tutte le edizioni di Mighty FM hanno visto una versione diversa, dalle versioni techno alle versioni metal alle versioni più classiche orchestrali, di questo bellissimo pezzo di Beethoven con il testo di Schiller, nonché inno dell'Unione Europea. Questa prima selezione è abbastanza elettronica, ambient e atmosfera. E iniziamo con un sodalizio interessantissimo, ovvero quello tra Daniel Avery e Alessandro Cortini. L'album uscito il 27 marzo per la Mute Records si chiama Illusion of Time. E ho unito un paio di brevi tracce, questa prima si chiama Space Channel. Quest'altro breve pezzo si chiama Interrupted by the Cloud of Light. Daniel Avery, DJ producer che io ho sempre apprezzato molto, generalmente pubblica per la Fantasy Records di Errol Alkan. Alessandro Cortini, non ha tanto bisogno di presentazione, parte della band di Trent Reznor, Nine Inch Nails. Manca un'attività solista, l'ultimo album, volume massimo, un live al Robot dell'ultima edizione, spettacolare, super emozionante. Mentre lui è un romagnolo proprio simpaticissimo, con la voce da paperino. E così, due brevi menzioni per questo album collaborativo. E lo stesso giorno, il 27 marzo, è uscito anche Cenizas, Ceneri, nuovo album di Nicolas Jaar. Album uscito per la sua etichetta Other People, stiamo ascoltando il pezzo di chiusura dell'album, Faith Made of Silk. Album che contiene anche due pezzi dal titolo italiano, Agosto e Gocce, perché mi pare che viva in Italia, a Torino forse. Artista cileno-americano, molto precoce. Uno di quelli che fa un po' quello che gli pare. Facendo la selezione tra una trentina tra album e singoli pubblicati nel mese di marzo, voi direte, vabbè, ormai è metà aprile e potevi anche spostarti un po' più là, ma noi siamo fatti così, dobbiamo individuare una struttura, e quella è il mese di marzo, è così. Magari ve lo siete persi, magari roba che non conoscete, poi magari nel secondo podcast farò anche qualche nome dei dischi usciti già all'inizio di aprile, di cui consiglio l'ascolto personalmente. E siamo passati a un altro album collaborativo molto speciale, secondo me. Penso che anche i titoli dei pezzi che abbiamo sentito finora e il titolo di questo album siano in qualche modo in tema con la situazione un po' che viviamo. Questo pezzo si chiama Agathon, è tratto da Aporia. L'album collaborativo tra Sufjan Stevens e Lowell Brahms, uscito il 24 marzo, ovviamente per la Asthmatic Kitty, etichetta da sempre di Sufjan Stevens, anzi, fondata nel 99 per la sua musica da Lowell Brahms, suo patrigno, a cui già dedicò in parte lo struggente album del 2015 Carrie Lowell. Questo secondo pezzo che ho scelto si chiama What It Takes. Quindi riconoscendo il talento musicale del suo figliastro, con la comunità di artisti di Holland nel Michigan fondò questa etichetta dedicata alla gattina asmatica Sara. Stevens, sempre che molto prolifico, famose le sue interminabili raccolte di pezzi natalizi. Poi c'era il progetto dei 50 stati, un album per ogni stato americano, ricordiamo Illinois, poi non ne ha fatti altri. Per la sua svolta elettronica con The Age of Odds. Dicevo perché il titolo dell'album può un po' rifarsi alla situazione attuale, perché Aporia è il dilemma irrisolvibile, la questione insolubile, partendo da delle premesse date inconciliabili, non si riesce a arrivare ad una sintesi, ad arrivare ad un risultato, una soluzione del problema che abbia senso. Quindi diciamo che la nostra situazione è questa, di sospensione tra cioè un desiderio di sicurezza, un desiderio di libertà. Tutti pezzi strumentali abbastanza brevi, quindi ne abbiamo scelti e mischiati insieme quattro. Questo si chiama The Runaround, che però in questo caso vede la presenza della voce di Cat Martino, tour musician per Sufjan Stevens, ma anche per Sharon Van Etten. Quindi, siccome tutti i nostri ascolti hanno portato ad una selezione, vabbè, ma si sa che io non sono capace tanto di selezionare, una selezione molto corposa e di tenore, di stile, di umore molto diverso tra, insomma, l'ambito più sperimentale, elettronico, e invece l'ambito più pop rock, indie, generico. Ho pensato appunto di fare due podcast, poi vediamo se i miei editori li accettano. Questa è l'ultima traccia che abbiamo scelto da Aporia, album di Sufjan Stevens più Lowell Brahms, si chiama Captain Praxis. Per chi magari non ce l'avesse presente, Sufjan Stevens è quello che ha raggiunto l'apice del successo mainstream, sebbene cos'è mainstream, cos'è alternativo anche negli Stati Uniti, sia molto diverso dal concetto che ne abbiamo noi, ma sicuramente mainstream anche per noi, perché la sua canzone, The Mystery of Love, fu candidata a miglior canzone agli Oscar per la colonna sonora di Call Me By Your Name di Guadagnino. Un po' come contrappunto, alternando ritmi più sostenuti nei limiti di questa selezione, c'è questo pezzo di Christian Löffler, pezzo conclusivo, Für immer, per sempre, del suo nuovo album dal titolo Lys, che in danese, lui è tedesco, ma in danese significa luce. Un album appunto basato su come sia diversa la luce nel nord della Germania, ovviamente lui parla del suo paese, quindi nel nord della Germania c'è la Danimarca, perché essendo Might FM un programma didattico, la geografia ne è parte integrante. Album uscito il 20 marzo per la sua etichetta, la Key Records, Christian Löffler. cambiamo decisamente suoni. Ultraista, Teen King, primo singolo del loro secondo album in 8 anni. L'album si chiama Sister. Album uscito il 13 marzo. Per questo trio un trio che è praticamente un supergruppo, in quanto composto da Nigel Godrich e Joey Waronker, già insieme negli Atoms for Peace con Tom York e Flea. Si sa, Nigel Godrich è stato il creatore insieme ai Radiohead della loro svolta elettronica sperimentale con Kid A, che accompagna sempre anche Tom York dal vivo, e Joey Waronker, batterista noto per aver sempre suonato nella band di Beck e per aver sostituito Bill Berry negli R.E.M. e più la voce di Laura Bettinson. C'è un sodalizio iniziato nel 2008 tra Nigel Godrich e Joey Waronker, che si è concretizzato in un primo album nel 2012, e poi ovviamente, siccome mi sa che sono abbastanza impegnati tra tutti gli altri progetti, questo set project degli Ultraista vede solo adesso una seconda pubblicazione per un nome che viene dall'ultraismo. Inizio da colpo al cuore, con un'atmosfera dei suoni che hanno inventato, e questo diciamo è una riproduzione fedele, Balls of Canada, c'è un nome che viene dall'ultraismo, ovvero movimento letterario spagnolo di breve durata dal 18 al 22 del Novecento, di cui però ha fatto parte anche Borges, che insomma un po' sullo stile del futurismo, del dadaismo, del surrealismo, proponevano una certa rottura letteraria. All the lights that you said are in your eyes. questo secondo pezzo, che inizia come Birds of Canada e continua un po' come Lotus Flower di Radiohead, si chiama Ordinary Boy. Ordinary Boy e inizia il terzo pezzo che abbiamo scelto da questo album, si chiama Mariella, l'album è Sister, il gruppo è Ultraista. When you play it down, then you sing. Sì, i suoni sono quelli, Atoms for Peace, Bjork da solo, però questa voce femminile che ha qualcosa di anni 90, qualcosa di bristoliano, qualcosa di inditronica dei primi anni 2000, Barbara Morgenstern, Lali Puna. Devo dire che non conoscevo il progetto. E essendo che noi mettiamo i pezzi che ci piacciono, questi pezzi ci piacciono molto. Per un album che è uscito per la Partisan Records, piccola etichetta, che però vede nel suo cosiddetto roster Cigarettes After Sex, gli Idols, John Grant e Westerman, un giovane cantautore londinese di cui tra poco uscirà il primo album di debutto e sul quale avevamo idea di fare una delle nostre monografie. In realtà c'era un'altra monografia che era già quasi pronta, che io pensavo di poter andare a fare in diretta dagli studi di Radio Fujiko qui a Bologna, dove andrebbe in onda la mia trasmissione, ma poi tutto si è fermato. Anche perché pensavo di non poter avere i mezzi per farne una versione casalinga. Però quando Gianni mi ha chiesto di partecipare a questa 3 giorni, ho deciso di provare. Siamo quasi alla fine di questa prima selezione dei... non so, selezione tra quello che mi è piaciuto di più di quello che è uscito a marzo, tra i nomi che potevano essere più o meno rilevanti, conosciuti, appartenenti ad un ambito musicale a me familiare. Questo suono è molto specifico di una scena molto geolocalizzata. Che è quella svedese. Si tratta di Andreas Klerup, o Klerup, diremmo noi. 6 marzo è uscito il suo secondo album dal titolo 2. Questo pezzo si chiama Arlanda, pubblicato per la sua etichetta You OK, fondata nel 2017. Debutto nel 2008 con album omonimo e che conteneva 2 piccole gemme che non a caso vedevano la collaborazione di 2 artiste suoi connazionali, ovvero Until We Bleed con la voce di Dick Lee e With Every Heartbeat con la voce di Robin. quindi finisce questo pezzo, breve pezzo strumentale, Arlanda, e anticipo anche che non sarà l'unico pezzo di Clear Up, in quanto ce n'è un altro che invece è molto più pop, molto più ABBA, rimanendo appunto nella tradizione svedese, e invece siamo passati all'ultimo contributo di questo piccolo podcast. Si tratta di Kieran Hebden, ovvero Fortet, che ha pubblicato il suo 10° album a firma Fortet, poi ce ne sono anche altri. L'album si chiama 16 Oceans, l'etichetta, la Text Records, come nel caso di Clear Up, è la sua propria etichetta, fondata nel 2001, dove ha anche pubblicato i suoi progetti in collaborazione con Burial e il suo singolo con Daphne e qualche altro artista, ma lui è talmente prolifico. Il pezzo di apertura dell'album si chiama School, e l'ultimo pezzo di chiusura si chiama Mamma insegna il sanscrito. E finisce così, con una nota un po' più zompettante, danzereccia e luminosa, questa selezione. Rimanete sintonizzati su Roboteri Radio, Spreaker.com. Alla prossima, ciao da Claudia Mighty Mau. Ciao da Claudia Mighty Mau, eccoci al secondo podcast per Roboteri Radio, una mini versione di Mighty FM, il mio programma radiofonico che faccio dal 2010, e faccio notare la pregevole sigla di questo secondo episodio, sempre una variante sul tema dell'inno alla gioia. Ma se nell'altro caso si trattava della versione elettronica prog della colonna sonora di Clockwork Orange, qui ci troviamo di fronte ad un capolavoro assoluto, ovvero la versione di Beaker, lo scienziato imbranato dei Muppets, di cui esiste anche una pregevolissima versione video. E insomma, come raccontato nella prima trasmissione, così come idea per questo super evento della roboteria, ho pensato ascoltiamoci un po' tutto quello che è uscito nel mese di marzo, di roba nuova che più o meno ci può interessare, nomi che conosciamo, comunque un ambito musicale a noi familiare. Perché appunto questo mese di marzo, che per il mondo è stato così strano, surreale, invece dal punto di vista discografico ovviamente è proceduto secondo i piani. E alla fine di tutti quegli ascolti si sono creati virtualmente due blocchi musicali, cui il primo era più sul genere sperimentale, elettronico, ambient, e mentre il secondo, come potrete già star sentendo, è un po' appunto sul rock, pop, indie in generale. Si chiama Despite, loro sono un duo, a volte trio dal vivo, vengono da Buenos Aires, si chiamano Las Kellys, ovvero Ceci Kelly, Sil Kelly e a questo punto direi anche Gianni Kelly. Incidono per la inglese Fire Records ed è per questo che infatti io le scopersi in occasione di una trasmissione su un duo inglese della stessa etichetta, ovvero i Virginia Wing. Quest'ultimo album si chiama Suck This Tangerine, succhiati sto mandarino. Punk, oh, Riot Girl latine. E appunto, essendo una realtà musicale femminile argentina, hanno partecipato, me le sono trovate successivamente in un documentario sulla scena femminista queer musicale proprio 360 gradi di Buenos Aires, dal titolo Una banda di chicas, che ho tradotto per Sempre Fair Cake dello scorso settembre. Questo ci ricorda moltissimo le Breeders, delle sorelle Dio, che adesso infatti mi stavo confondendo, dico no, Kelly, sì, però Kelly c'entra qualcosa, perché è Kim Deal e Kelly Deal, quindi siamo sempre lì, Kelly. Questo pezzo è molto carino, il pezzo di chiusura si chiama Close Talker, che denuncia appunto, diciamo, l'invasione del personal space. Ciao Noah. Che moltissimi maschi compiono non rendendosene conto o comunque non volendo rispettare comunque anche una richiesta esplicita da parte di una donna. Infatti cantano "Posso sentirti in fiato", "Close Talker". Close Talker, tratto da Suck This Tangerine, uscita il 27 marzo, delle Kellys, The Last Kellys, e adesso una gran sorpresa. Come non riconoscere questa voce? Don't think about it. If you're gonna run home and cry, then don't waste my time. If you're gonna kill yourself, then just save face. Get on with it. Ebbene sì, Stephen Patrick Morrissey. 20 marzo è uscito il suo ennesimo album I'm Not a Dog on a Chain, non sono un cane alla catena, lo sapevamo, uscito per la BMG, diciamo che forse il penultimo, me lo sono un po' perso. Chi mi conosce sa che potrei parlare delle ore di Morrissey e degli Smiths, gruppo che mi ha formato, diciamo, in tutto e per tutto durante i miei 14, 15, 16 anni. Quando ho scoperto gli Smiths stavo di notte ad ascoltarmi le cassette con il volume a palla e gli occhi sbarrati, e non riuscivo ad addormentarmi per l'eccitazione che mi comunicavano i pezzi degli Smiths. Ma anyway, questo pezzo di apertura del nuovo disco di Morrissey si chiama Jim Falls, un gioco di parole tra le cascate di Jim Falls in Australia e Jim che cade, che diciamo che non è tanto un'istigazione al suicidio questa canzone, ma a fare le cose che vuoi fare, perché chiaramente la frase che spicca è: se vuoi ammazzarti, ammazzati, fallo e basta. Però dice anche: se vuoi cantare, canta, se vuoi fare una cosa, falla, non stare a parlarne, falla e basta. L'ascolto di questo disco è stato molto molto sorprendente, perché ho riscoperto quell'eccitazione nell'ascolto, anche perché diciamo che c'è una serie di autocitazione del passato e ti fanno molto piacere dei pezzi perché sono subito familiari. E ne ho scelti tre. Questo è il secondo, si chiama Knockabout World. Benvenuto in questo mondo sguaiato, grossolano. Perché ci sono suoni familiari, ma anche suoni ritmi nuovi per Morrissey. La familiarità di questo pezzo, per esempio, che ricorda un po' An Happy Birthday, l'ultimo disco degli Smiths. Finito così bruscamente, proprio davvero così che finisce il pezzo. Terzo pezzo che ho voluto, che mi è piaciuto di più, è questo inizio alla Moroder. Once I saw the river clean. Distant future wait for me. I grow pleasing to the eye and the cue will cue for me. Questo pezzo ha dei rimandi a Strange Ways Here We Come qui. I walked with my grandmother down a windblown Chester Road with her 52 new pets. Come una versione rallentata di Stop Me If You Think You've Heard This One Before. Come se Morrissey in questo album avesse ritrovato la sua miglior vena melodica. E poi per quanto riguarda le sue opinioni politiche, come se sia diventato un, come dire, un vecchio rosicone, ecco. anche la recensione di Pitchfork diceva, alla fine i fan che gli sono rimasti fedeli in certo qual modo devono un po' separare l'artista dalla persona e le sue esternazioni, soprattutto dal punto di vista politico, lo sappiamo. E c'è questa frase che mi ha colpito molto della recensione di Pitchfork. Praticamente chi ancora lo ama ha accettato il fatto che la persona, l'artista che l'ha fatto piangere e che magari in qualche modo gli ha salvato la vita, fondamentalmente provi ribrezzo per la tua esistenza. Canzone che parla di un sacco di ricordi d'infanzia, di quando usciva per le strade che nomina ad accompagnare sua nonna che andava a comprarsi le sigarette. Riferimento alle origini irlandesi, infatti quasi da un pezzo alla Moroder diventa una giga, una danza irlandese. Insomma, bravo Moz. My hands up to your throat. Don't say you know it getting old. Don't, if you know my name, then it's all game. Don't, it's fine. Darling, you're mine, why take our time? Don't, there's just so much I need to know. Don't. Let's keep it simple, let me show. Don't, I've been to fences since I left the womb. Don't, you got so many more souls to prove. And you, just want something to call your own. And I, just need my parents to get off the phone. Questa è la voce di Lauren Oder, Lauren Oder, cresciuta nel sud-ovest della Francia, di base a Londra, 21enne appena, non binary. Come un King Cruel più soave. On the spot, I'll say I do. Darling, every morning with you. Un primo EP di 5 pezzi nel 2018 e un altro che è uscito il 5 marzo, Two Caves In, questo ne è il singolo. Well, I don't feel pain, but oh, un pezzo che si chiama June 14th, ovvero tra 2 mesi esatti. Voglio ricordarmi che oggi ho pensato: dove sarò il 14 giugno? Dove saremo tutti il 14 giugno? A che punto saremo di questa storia? Comunque, un artista che avevo già trovato, di cui aspettavo appunto l'uscita, molto affascinante, lavora anche come model, non usiamo nessuna desinenza. Sicuramente questo titolo per un 14 giugno passato, in qualche anno passato della sua esistenza. E invece voglio immaginarmelo nel futuro. Laurent Oder. Rimaniamo a Londra. Si tratta di un duo, lui lei, dal nome Sorry. Everybody dreams alone. Questo passaggio sembra quasi Deus. E poi cambia, nella miglior tradizione del Britpop. Sorry sono in giro da un po', hanno pubblicato molti singoli e video, molto DIY, sembrano molto giovani, molto hip, molto londinesi, e finalmente hanno pubblicato un album di debutto che si chiama 125, a cifra 925, comunque per far riferimento al lavoro d'ufficio, al lavoro noioso. C'è questa cosa, c'è tutta una mitologia attorno allo spettro di una vita noiosa, di un lavoro d'ufficio con degli orari così stretti, soprattutto per gli anglosassoni, a cui appunto gli artisti vogliono rifuggire. Non è un debutto qualsiasi, perché hanno pubblicato questo disco con la Domino Records. This is a demo. Everybody dreams alone and it makes me cry. Everybody dreams alone and it makes me cry. Disco uscito il 27 marzo, abbiamo scelto 2 pezzi. Quello che è appena finito si chiama In Unison, è questo. mi riporta alla metà degli anni 90 di brutto. Questo secondo pezzo invece si chiama Starstruck. Un po' leggerissimamente Song 2, un po' ci sta l'hand clapping di Brett Anderson The Suede, con la sculettata annessa ovviamente. An apple of your eye. Pressure poets, priceless smiles, cutting edge, entertained with foolish antics. Ah, è la chitarra dell'elastica, cavolo. Effetto di delay di questo verso di conato. Ecco, anche questo pezzo lo trovo molto esaltante, molto fresco. Quasi ci canti subito sopra i Pixies, se prima abbiamo nominato The Breeders. Jenny Lee, ovvero Jenny Lee Lindberg, molto bella bassista di Warpaint. Sposata per anni con Chris Cunningham, famosissimo videomaker, creatore dei storici video di Aphex Twin. Per questo pezzo, che in realtà è una cover, che era solo voce e pianoforte, invece lei ovviamente l'ha fatta a struttura con il suo strumento, il basso, e facendolo appunto un po' un ibrido tipo Where Is My Mind dei Pixies. Il pezzo originale era niente po' di meno che dei Fugazi del 99. Questo pezzo è stato diffuso il 6 marzo, ma verrà pubblicato fisicamente per il Record Store Day, che capita sempre il 18 aprile di ogni anno. I'm so tired. It's all too crazy. Come non riconoscere ed amare l'oltraggine di Kathy Stelmanis, ovvero Austra. Progetto soprattutto appunto di Kathy Stelmanis, di formazione cantante lirica. Abbiamo fatto anche una monografia su di lei, su di loro, finalmente con l'ultimo album che ha portato anche qui a Bologna la programmazione estiva del Covo 2 estati fa. Questo pezzo molto molto bello secondo me, uscito il 5 marzo, si chiama Anyways con la Z e è il secondo singolo in anticipazione dell'album nuovo. L'album nuovo uscirà il 1 maggio e si chiamerà Hirudin. Uscirà il 1 maggio, sempre per la Domino Records, e questo pezzo secondo me meriterebbe un bel remix, vero Roboterì? ho detto ok, questa è la canzone della pietra sopra. Poi ho sentito anche le parole di questo nuovo pezzo che è iniziato ora, ho detto ok, andiamo bene. Questi sono i Cold Cave, progetto fondamentalmente di Wesley Isold, e anche questa è una cover, si chiama Waving Hands, pubblicata il 20 marzo, come una versione euforica dei Joy Division. Ah, forse perché è la cover di un gruppo che era della stessa epoca. Degli Absolute Body Control, gruppo belga, musica elettronica proto synth pop primissimi anni 80 appunto. Col Cave sono stati uno di quei gruppi che sono nati un po' di anni fa, una decina d'anni fa, questo revival della musica post-punk dark, quando a un certo punto la gioventù americana di quegli anni ha scoperto il dark. E noi l'abbiamo amati moltissimo con il primo disco, Love Comes Close, del 2009. Album che conteneva dei pezzoni come Life Magazine e soprattutto ICDK. Magari non troppo coinvolgenti dal vivo, ricordo un concerto a Locomotive, tra l'altro neanche tanto troppo frequentato. Annunciato nel scorso podcast, sarebbe arrivato il secondo pezzo di Klerup, producer svedese. Questo pezzo stava in quest'altro podcast perché è super pop, super svedese, super ABBA. Suo nuovo album si chiama Two, questo pezzo si chiama I Don't Mind. Diciamo che anche il contenuto di questo pezzo è un po' sulla scia degli altri due. E la voce è quella di Christine dei Yumizuma, quartetto neozelandese, e si sa che tra Australia e Nuova Zelanda sono più fan degli ABBA loro che gli svedesi. La storia di Priscilla, regina del deserto, non è una cosa a caso. Gli australiani sono pazzi per gli ABBA, tanto che il più famoso gruppo cover band, tribute band degli ABBA è australiano, e li vidi dal vivo 3 vite fa a Reading, i Björn Again. E niente, ci lasciamo con una nota allegra, di speranza, di gioia, di... con l'augurio di ritrovarci insieme presto. Avevo anche detto che magari buttavo lì dei nomi delle uscite di aprile. Consiglio l'ascolto, l'uovo di Yves Tumor, Purity Ring dopo 5 anni, la mixtape nuova di Yaeji. Grazie Gianni, grazie Ale. Claudia, Mighty Mouse.